Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Se il naso di Cleopatra fosse stato più corto, sarebbe cambiata l'intera faccia della Terra. Blaise Pascal, matematico, filosofo, vissuto a metà del 1600. Buongiorno a voi da Nicoletta Carbone. Oggi partiamo da un naso regale, quello di Cleopatra. Blaise Pascal ci dice che era un naso importante, pronunciato. Ma che interesse poteva avere il naso di una regina per un filosofo? Forse voleva dirci altro. Ad esempio che secondo la fisionomica, che ai tempi di Pascal andava di gran moda, quella forma del naso era segno di forza e di autorevolezza. Quindi se Cleopatra avesse avuto il naso più piccolo, forse non sarebbe stata la donna di potere che è stata, con tutto quello che da ciò ne può derivare. Ma se il naso, importante per la fisionomica, è segno di carattere, autorevolezza, determinazione, la scienza ci dice che un naso grande è un prezioso alleato per la nostra salute. I ricercatori dell'Ateneo dell'Iowa hanno dimostrato che i nasi ingombranti inalano in media quasi il 7% in meno di sostanze inquinanti. Barbara Streisand, Gérard Depardieu e tutti coloro dotati di un naso pronunciato godrebbero di una sorta di protezione naturale nei confronti dei germi in entrata, capace di ridurre il rischio di malanni e acciacchi. Un profilo che sporge dà una migliore protezione alla bocca, spiega René Anthony, a capo dello studio. Pertanto, un naso grosso potrebbe ridurre il rischio di infezione e questa barriera naturale potrebbe funzionare anche per il polline. Ma insomma, oggi è davvero il giorno delle buone notizie. Se il vostro naso è grosso, non solo avete carattere, ma con buona probabilità siete anche più resistenti. Ma oggi non ci occuperemo solo di nasi di taglia extra large, ma di tutti i nasi, indipendentemente dalla forma. L'importante è che sia il naso di un ascoltatore di Essere Benessere. Questo fa la differenza. Intanto chiudete la bocca, voi che potete, provate a respirare, poi prendete il telefono, chiamateci 800 24 00 24 per raccontarci come funziona il vostro naso, se fa bene il suo dovere, se respira bene, se l'aria passa senza difficoltà, se sente gli odori, se ha un luogo in particolare in cui si trova meglio, se qualcosa lo irrita, lo fa gocciolare, chiudere, starnutire, pizzicare. Oh naso mio, come parlar male d'una cosa naturale, quotidianamente c'è chi mi dirà che un naso come questo è un'assoluta enormità, più grande assai dell'impero del Catai, che sembra un edificio rococò contorto e lungo. O naso mio di Yuka Chaves, cantautore brasiliano, ma in studio con me ho il dottor Andrea Franzetti, primario di otorinolaringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletta. Il suo naso sta bene? Benissimo, grazie. Allora facciamo subito un piccolo test per capire se anche quello dei nostri ascoltatori se la cava altrettanto. Certo, un giochettino, anzi dai, due, veloci. Prima dobbiamo fare una cosa un po' sorpresa, bisogna essere pronti al 3, sì. Cioè bisogna chiudere la bocca e poi di colpo, via una bella ispirazione di colpo così, così, ecco. Chi inizia a tossire subito dopo una bella ispirazione già ha un senso di irritazione nella zona tra naso, gola, eccetera. Perché quando il naso ha molto muco che si raccoglie dietro, queste inspirazioni forzate possono provocare subito un fatto irritativo. E noi ritorniamo in studio, dottor Franzetti, continuiamo ad occuparci del nostro naso. Certo. E poi bisogna vedere come espira il naso, cioè come butta fuori l'aria. Allora per far questo bisognerebbe dotarsi di uno specchiettino. Sì. E poi fare questo esercizio, appoggiare lo specchiettino davanti al nostro naso, proprio verso il labbro superiore. Non... Adesso con queste belle labrone a canotto, si appoggia bene. Poi prendere l'aria dalla bocca, esatto, e poi fuori dal naso, così. Poi si guarda lo specchiettino e si vede intanto se lo specchiettino forma due aloni, sì, appannati, simmetrici o asimmetrici. Perché questo ci dice, se sono simmetrici, il naso respira bene da tutte e due le parti e respira con una certa efficacia. Se invece sono asimmetrici, magari una parte è molto più ampia, questo alone, e l'altra parte è molto più piccola, vuol dire che nel naso c'è una simmetria, quindi o un setto deviato, dei turbinati o qualcosina che non è proprio a posto. Quindi se avete fatto questi due esercizi, se respirando, chiudendo la bocca, inspirando e poi vi viene da tossire, chiamateci 800 24 00 24, e se avete a disposizione un piccolo specchio, quelli che noi donne usiamo per il trucco, e volete provare a vedere se il vostro respiro lascia traccia, in fondo è questo, se certo, si appanna e crea due zone, due macchioline omogenee oppure no, chiamateci subito 800 24 00 24. Insomma, racconteremo tutto del nostro naso, ma cercheremo soprattutto di farlo stare bene. Allora, per chi ha il naso chiuso, un semplice esercizio da fare adesso. Porta l'indice della mano destra, sinistra se sei mancino, nel punto in cui il setto nasale si attacca alla fronte. Ecco, lì, dove c'è una piccola fossetta. Adesso premi. La pressione deve essere decisa, ma non dolorosa o fastidiosa. Mantieni la pressione in questo punto per 5 o 6 secondi. Dovresti avere un piacevole formicolio alle narici. Poi premi con le quattro dita, indice, medio, anulare e mignolo, un pochino sotto gli zigomi. A questo punto il tuo naso dovrebbe essersi liberato. Lo stavo facendo, ma intanto voglio salutare il professor Fulvio Palombini, reumatologo, docente in fisioterapia all'Università La Sapienza di Roma, ospedale Sant'Andrea, e grande esperto, il nostro sciazzologo. Professore, grazie. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'esperto. Professore, abbiamo cercato di venire in aiuto con un esercizio molto semplice per chi ha il naso chiuso, ma lei affiderei invece chi ha il naso che gocciola, anche sì, questo è un fastidio. Sì. Lo shiatsu ci dà una mano? Perché no? Per noi il naso è molto importante, la respirazione è il fulcro della riabilitazione, quindi bisogna avere sempre il naso molto libero. Allora, un esercizio molto semplice. Si prende pollice e indice, si afferra al naso con pollice e indice, mentre con la mano destra, sì, mentre si inspira, si spinge con il pollice sul naso, si inspira, chiaramente si inspira con la narice libera, perché l'indice è libero, sì, si fa un bel respiro, poi si chiude, si libera il pollice, perché prima era premuta dal pollice, sì, si spinge con l'indice e si espira con l'altra narice. Se non si riesce con l'altra narice, ci si aiuta con la bocca. Quindi si spinge col pollice, si inspira con la narice libera, poi si spinge con l'indice e si cerca di buttare fuori l'aria mentre con la narice che prima era premuta dal pollice. Quindi una ginnastica? Una ginnastica, si fa ritmicamente. Se non si riesce a espirare quando si libera la narice che prima era premuta, ci si aiuta un pochino con la bocca. Quindi via, si spinge con il pollice, si espira con la narice libera e poi si espira premendo invece con l'indice e si espira con la narice che prima era premuta. Quindi andiamo di pollice e indice, dottor Franzetti. Andiamo di pollice e indice. Tutti i rumori che si sentivano erano Nicoletta che ne faceva di tutti i colori col suo naso. Ma non è vero! In effetti io avrei bisogno molto, infatti il mio naso mi dà qualche problema, ma resisto, cerco di fare un po' di shiatsu, faccio i lavaggi nasali. Io devo dire lo coccolo, questa mia canapietta. Tra l'altro voglio chiedere proprio al professor Palombini di venire in aiuto delle persone che come me hanno un po' problemi cronici. Penso a chi soffre di sinusite e quindi ha sempre un po' il naso che fa i capricci, soprattutto in questo periodo. Allora, ci dà un dito, due dita, una mano? Tecnica giapponese, sempre secondo lo shiatsu, si prende sempre la mano destra, il pollice della mano destra si mette proprio all'angolo tra l'occhio e il naso. Sì. Quella fossetta proprio tra l'orbita e il naso, si spinge con una certa intensità, chiaramente chi soffre di problematiche croniche è un po' infiammato, quindi l'algia si manifesta il dolore si manifesta subito. Bisogna rispettare questo dolore. Se la persona invece può sopportare una pressione più intensa, si può premere un pochino di più, si preme per 5-6 secondi e poi si lascia morbidamente e di nuovo si ripete per 7-8 volte, piuttosto ogni volta vi accorgerete che potrete premere un pochino di più e premete un pochino di più fino ad arrivare a quel dolore sopportabile che è poi l'essenza dello SHARS. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi, per gli esercizi che ci ha suggerito, che ricordo agli ascoltatori che già me lo stanno chiedendo che Laura Vanossi ne metterà sulla pagina di Essere Benessere, quindi avremo un consiglio quotidiano per il nostro naso, esercizi per prendercene cura. Grazie professore, alla prossima. Grazie a voi, a presto, grazie. Allora professore, dottor Franzetti, abbiamo Alessandro che ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione e saluto i suoi ospiti. Grazie. Grazie. Mi racconti di lui, del suo naso, come sta? Io ho un problema, nel senso che perennemente tutto l'anno, magari in alcuni periodi questa cosa si accentua, ho costantemente una delle due narici ostruita. E può essere il destro, può essere il sinistro e diciamo che a volte sento come un senso di oppressione di qualcosa tra, diciamo, a livello alto del naso, quindi all'altezza degli occhi, e sento a volte, appunto, a seconda del destro o del sinistro, questa oppressione, diciamo, questo fastidio come se si spostasse. Sì. Allora, a seconda di come si sposta, io poi sento ostruire una o l'altra narice. Allora, certo, dottor Franzetti, il fatto che si sposti di qua e di là indica già che siamo di fronte a una cosa funzionale benigna, e cioè, quindi che non iniziare c'è da preoccuparsi, a stare tranquilli. Sicuramente è un disturbo e quindi bisognerebbe, parto dal presupposto che non sia un soggetto allergico, perché se avesse un'allergia già questo spiega questi fenomeni. Sono dei fenomeni che noi chiamiamo di tipo vasomotorio, in cui le mucose del naso, in modo particolare quelle dei turbinati, proprio si modificano e si gonfiano e si sgonfiano a seconda di come il naso viene in contatto con gli ambienti o come anche il corpo si posiziona, se è sdraiato su un fianco, pancia in su, eccetera. E questo succede a tutti fisiologicamente, in alcune persone invece è accentuato e crea dei disturbi. A questo punto bisogna capire, sia studiandolo un attimino, sia valutandolo dal punto di vista anatomico, se vale la pena fare delle terapie di tipo medico, che vanno però continuate cronicamente, oppure fare dei trattamenti con il laser che possono, diciamo, stabilizzare queste mucose. Dottor Franzetti, lei riferiva proprio che il naso si adatta o si irrita, no? Un po' come facciamo noi, a seconda dell'ambiente in cui si trova, oltre che della posizione in cui noi lo mettiamo, sdraiate, sedute, eccetera, anche il naso naturalmente ci segue. Certo. E allora entriamo un po' nella nostra casa. C'è un'aria che piace di più al nostro naso? Molti genitori ad esempio mettono l'umidificatore nella camera dei loro bambini, altri mettono nei termosifoni, nelle vaschette un po' l'acqua proprio per umidificare l'aria, e questo a tante persone aiuta, no? A respirare meglio, non sentire il naso secco come alcuni mi scrivono. Dottor Franzetti, facciamo bene, facciamo male? Cosa possiamo fare? Ma io penso che in tutte le cose ci debba essere un po' di misura. Cioè, io ho visto anche persone che usano talmente gli umidificatori che hanno la muffa in casa. No, nel senso che sicuramente nei posti dove ci sono i caloriferi che vanno molto forte, dove l'aria è molto secca, dove ci sono alcuni impianti di condizionamento particolarmente, diciamo, non idonei, l'aria molto secca è un nemico del naso sicuramente. Soprattutto perché magari uno è in un ambiente dove fa molto caldo e molto secco, immediatamente esce in un posto che magari è molto umido e molto freddo. Perché gli sbalzi, anche lui è un po', certo, il naso è abbastanza delicato. Lo sbalzo è molto dannoso per il naso. Quindi umidificare l'aria, ma non troppo. Quindi concretamente cosa si fa? Ma secondo me è giusto utilizzare le cosiddette, diciamo, contenitori con un po' d'acqua sui caloriferi, far andare non per tutto il giorno, ma magari in alcuni momenti, quando magari uno nei momenti serali, in alcuni momenti quando uno ha più bisogno di un comfort per il naso, un umidificatore, però senza esagerare. Senza esagerare. Omar dalla provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Omar, lei come funziona il suo naso? Ha fatto qualcuno degli esercizi che abbiamo suggerito? Sì, ho provato quello dello specchio. Ah, che aveva uno specchio a disposizione vicino, è stato fortunato. Sì, in macchina. In macchina, ecco. Hai fatto anche senza, perché so già che il mio naso funziona più da una parte che dall'altra. E in effetti è venuto un malone più grosso da una narice e da quell'altra più piccola. Volevo sentire qualcosa in proposito. Dottor Franzetti, allora, aloni asimmetrici, che cosa facciamo? Intanto si deduce che una parte funziona di più in espirazione e l'altra di meno, sì. Ma sarebbe interessante magari ripetere questa sera lo stesso esercizio per vedere se si mantiene esattamente maggiore una parte rispetto all'altra. Perché? Perché se variasse questa, diciamo, ampiezza dell'alone, sicuramente ci orientiamo più su una patologia, sulle mucose, i turbinati che vanno studiati, eventualmente trattati. Se invece rimane sempre chiuso dalla stessa parte, i casi sono due: o c'è una deviazione importante del setto nasale che chiude quella parte delle fosse nasali, oppure ci potrebbe essere qualche polipo o qualcosina all'interno del naso che va studiato, che chiude quella parte lì. Allora, prima di sentire le notizie dei mercati, voglio segnalarvi un'opportunità. Oggi due di voi avranno la possibilità di ricevere due biglietti validi per due persone per l'ingresso alla Borsa Internazionale del Turismo nei giorni di sabato 19 e domenica 20. Allora, i primi due ascoltatori che mi scriveranno un SMS al 349-238-6666 con questa frase "ficco il naso alla bit" riceveranno i biglietti. Nel frattempo vi ricordo che anche noi di Essere Benessere ci trasferiremo alla bit per la diretta di venerdì 18, quindi con il vostro nasino ci verrete a trovare, immagino. Vi aspetto, ma intanto adesso mercati. Essere e benessere. Ti abbiamo visto salire sul palco e poi guardare giù. Ti abbiamo visto iniziare il concerto e già non poterne più. Canzoni con il naso, canzoni con il naso lungo. Grosso, piccolo, lungo, come cantava Cristiano De André, Aquilino all'insù, rincagnato, storto, dritto. Oggi parliamo di naso, parlatene insieme a noi, 800 24 00 24. Oggi ci occupiamo di questa appendice, di questa piccola proboscide, che come possiamo definirla, che è un po' sotto gli occhi di tutti, su cui anche quando non vorremmo cade l'occhio di chi ci sta davanti. Infatti il dottor Franzetto ogni tanto mi guarda al naso e sa che... lei se la ride, ma io... Allora, dottor Franzetti... Ho sempre detto che è bellissimo. Bravo, perché lei è un bugiardo, ha il naso lungo. Massimo da Verona, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Volevo un attimo raccontare la mia breve esperienza. Io circa 4 anni fa mi sono operato al naso, ho fatto setto nasale turbinati. Sì. Perché con il mio turno avevamo visto che c'era l'osso del naso, che aveva un po' una piccola gobbetta. Sì. E abbinato ai due salsicciotti di turbinati, non tiravo molto bene. Sì. Dopo un attacco massilofacciale. Adesso sinceramente subito le cose andavano bene. Dopo 4 anni non sono proprio convinto che questa operazione sia stata il massimo, nel senso che io... per dire, con la prova dello specchietto, sì, il mio naso, una narice respira abbastanza bene, una invece è sempre un po' attappata, ma a volte si scambia, a volte una, a volte, sì, l'altra, non è mai la stessa. E gocciola leggermente ogni tanto, anche se non c'è raffreddore. Allora, quindi non so. Lei, Massimo, tra sé e sé dice, ma non so se questa operazione abbia poi risolto tutti i problemi. Dottor Franzetti, sicuramente una persona che viene da lei e si sente dire si operi, le chiederà, ma poi risolvo completamente tutti i problemi o dopo 3 o 4 anni, come è capitato a Massimo, insomma qualche problemino si presenta nuovamente? Tutti sono problemi, molto interessata. Tutti i problemi della vita è difficile risolverli con il naso, però diciamo che è necessario, quando si fa nell'intervento anche i turbinati, che poi i turbinati vengano continuamente trattati in qualche modo, almeno ciclicamente, perché hanno la tendenza, soprattutto in climi come quelli in cui noi siamo, dove il clima varia molto da, sì, secco a umido, cose del genere, a rigonfiarsi. I salsicciotti a cui faceva, esatto, riferimento Massimo, come si trattano i turbinati? Cosa gli facciamo? Allora, lavaggi nasali? Diciamo che ci sono degli espedienti di tipo anche termale piuttosto che anche domiciliare come i lavaggi nasali, fino a arrivare anche a dei cicli con degli spray fatti localmente, che non devono essere assolutamente degli spray che contengono dei vasocostrittori. Sì. Ma una delle cose che ultimamente si fa e che dà una certa stabilità e che è, diciamo così, è poco più che andare dal dentista, è proprio il trattamento di questi turbinati, le mucose, con un laser. Perché questo fa male? Fa un male pochino. L'anestesia locale, come quella che fa il dentista quando ci fa l'anestesia per i denti. Quindi se una persona ha questi turbinati, questi salsicciotti, mi è piaciuta molto l'immagine, perché è vero, certo, hanno vero. Un po' la forma dei salsicciotti, si gonfiano, sono un po' troppo, prendono volume, c'è questo trattamento con il laser che li sgonfia un po', certo, li disinfiamma. Che li sgonfia e li stabilizza, nel senso che permette di avere dei periodi anche lunghi, anche di 6, 7, 8 anni, in cui uno ritrova quel beneficio che aveva avuto dopo l'intervento. Prima di dare la parola ad Antonio dalla provincia di Catania, vorrei affrontare un argomento spinoso, direi anzi peloso: i peli nel naso, che avranno la loro funzione ma mettono in crisi molti uomini. Per fortuna noi donne questo problema non ce l'abbiamo, è tutto vostro. E in linea con noi abbiamo la dottoressa Riccarda Serri, dermatologa a Milano, presidente di Skineco. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Non è un problema nostro. Beh, un po' meno, diciamo che i peli un nel po' naso meno. Sono indispensabili e ce li hanno tutti. Sì, ma io non ho mai visto una donna con un pelo che usciva dal naso. Innanzitutto le donne le hanno molto più piccoli, delicati, e meno visibili. Poi le donne tendono a essere più attente al loro aspetto e quindi hanno l'ottima idea di tagliarli questi peli del naso quando spuntano fuori o quando ci sono, ecco. In effetti i peli nasali hanno la loro funzione, perché frenano le particelle varie, microscopiche, piccoline, frenano il loro ingresso dalla cavità nasale fino ai polmoni. Per quindi cui ci sono e servono. Filtro, fanno da filtro. Certo, non sono belli e mano a mano che si va avanti con gli anni crescono e si rendono più visibili, quindi esteticamente non sono proprio... Come lei diceva, si tagliano oppure alternative? Il pelo ha scatenato l'ascoltatore. Tagliare, cioè lasciare un pochino di pelo per svolgere la sua funzione. Eventualmente si possono togliere quelli più vicini all'esterno, insomma, con una pinzetta, però bisogna anche in questo caso stare molto attenti. Mi sembra una cosa dolorosa, vero? È piuttosto doloroso, eventualmente c'è chi ricorre anche al laser, però ripeto, verso l'esterno, assolutamente non all'interno. Bisogna anche stare attenti a non creare infezioni nella zona e nel caso disinfettare, mettere una pomatina antibiotica, proprio per evitare che le infezioni poi dal naso poi salgano verso l'alto. Ci sono anche degli apparecchietti apposta che si chiamano trimmer, che sono come dei tosaerba. Adesso stiamo diventando cattive, che sono quelli per le orecchie. Infatti rotondi, sono per le orecchie e anche per il naso. E adesso sono recentemente andata negli Stati Uniti a un congresso, sta sfogliando quei cataloghi che ci sono in aereo. Ebbene, è pieno di questi apparecchiettini, apparentemente inusuali, però molto utili, perché effettivamente si entra proprio all'interno, dove ci sono proprio i due fori del naso, e si tolgono i peli più... Il dottor Franzetti voleva intervenire, ma non so, voleva raccontarti una sua storia privata? No, io sono a favore del pelo. A favore del pelo, però... No, volevo solo dire che bisogna stare molto attenti a fare manovre sul naso, soprattutto, come diceva la dottoressa, a mettere pomate o disinfettanti dopo, perché il drenaggio venoso del naso arriva direttamente a livello del cervello e quindi foruncolosi importanti, ascessi nasali o complicanze a manovre di questo tipo devono subito essere trattate in maniera importante. Dottoressa Serri, grazie per essere stata con noi. Prego, sentiamo presto. Piacere. Buongiorno. A presto, arrivederci. Antonio, dalla provincia di Catania? Sì, buongiorno. Buongiorno. Intanto le ho raccontato un po' sul peli del naso, che magari lei non ha questo problema, ma insomma, vabbè, buttiamola lì. Tutti, però lo riusciamo a risolvere. Ci convidiamo. Allora, Antonio. Allora, brevemente, intanto buongiorno a lei e ai suoi interlocutori. Grazie. Il mio problema nasce nel naso esclusivamente in aereo. In buona sostanza, quando in fase di atterraggio, sono il primo che si accorge che l'aereo sta atterrando, perché comincia a tirarmi il naso. Dopo pochissimi minuti avverto un dolore lancinante. Io ritengo peggio della gravidanza, come peggio del parto. Sì, questa cosa la dite spesso voi uomini, no? Questo è peggio delle doglie. Va bene, comunque, passiamo all'Antonio. Ha ragione, non posso saperlo. Vabbè, però comunque. È veramente lancinante. Sento come se ci fosse qualcuno che mi sta tirando un lato della faccia a partire dal naso verso dietro, e si raccolgono tutti quelli all'aereo attorno a me, perché è proprio un dolore veramente che è difficilmente contenibile. Senta Antonio, lei prende spesso l'aereo? No, spesso no, però, però no, certo, immagino, certo. Sì, allora, dottor Franzetti, prima di occuparci di Antonio, lui viaggia in aereo ogni tanto, noi andiamo invece a sentire, siamo coi piedi per terra, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, e poi aiutiamo le persone che come Antonio, cambiando, no, con gli sbalzi di altitudine, andando in aereo, magari anche emergendo, si sentono questo dolore lancinante al naso. 800 24 00 24, a tra poco. Essere e benessere. Quando il naso in volo si lamenta e piange, è dolorosissimo. Ci racconta così Antonio. Che cos'ha il naso di Antonio? Questo è un barotrauma, cioè un traumatismo dato da uno sbalzo pressorio. Il naso, e in modo particolare i seni paranasali che stanno intorno al naso, che sono quelli che noi possiamo probabilmente, o gonfiandosi le mucose oppure perché sono troppo stretti, non riescono a compensare la pressione, quindi c'è come una pressione all'interno che spinge fortissimo verso l'esterno, e questo dà dei dolori molto forti. Il primo consiglio è una cosa che un otorino non dovrebbe mai dire in tutta la vita. La diciamo. Quindi, qua, essere benessere. Non bisogna fare questa cosa, tranne che quando succede questa cosa per il barotrauma, è spruzzarsi un vasocostrittore abbondantemente nel naso prima del momento del decollo dell'atterraggio. Okay. Perché questo già decongestiona il naso, potrebbe già essere sufficiente. Altrimenti c'è una soluzione, pur minimale o funzionale, ma chirurgica, che va a allargare questi osti di drenaggio. Però intanto, uno intanto prova con il vasocostrittore, vede, se non deve proprio, se non fai il pilota di linea, no? Antonio e io ce la caviamo così. A proposito di vasocostrittori, sono da utilizzare veramente solo nei casi suggeriti dal medico. Sì, invece noi con questi spray ci andiamo un po'. Soprattutto non cronicamente, perché a lungo andare danno assuefazione e rovinano le mucose del naso. Allora, in una puntata dedicata al naso non potevamo fare a meno di parlare anche di chi, per problemi funzionali o solamente per piacersi di più, decide di farsi mettere le mani sul naso. E in linea con noi abbiamo il professor Marco Klinger. Buongiorno professore. Professore? Non lo sento più. Buongiorno Nicoletta. Per un attimo ho detto, ma qua me lo sono perso. No, responsabile dell'unità operativa di chirurgia plastica dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Professor Klinger, come fate a operare oggi un naso? Ci sono persone che ricorrono a voi perché, con la scusa di avere magari un naso che non funziona bene, dicono tanto che ci sono. Gli do anche una giustatina, esatto. Invece il naso non mi piace, vado e mi faccio un nasino alla francese. Esatto. Le faccio conto che le medie sono il 50%. Il 50% chiedono solamente una rinoplastica, ossia un rimodellamento estetico, e un 50% insieme una rinosettoplastica, che è un rimodellamento estetico e insieme respirare meglio. La condizione che noi poniamo è quella che, nel caso vengano fatte entrambe, queste due manovre che sono contemporanee, derivino dalla medesima motivazione, come dire, non dal fatto che uno, volendo respirare meglio, già che c'è, vuole avere una piccola giustatina. Gli interventi devono nascere soprattutto nel 2000 da motivazioni precise. Ah, quindi bisogna proprio avere le idee ben chiare ed esplicitarle. Aver riflettuto un attimo e decidere che uno ne ha veramente voglia, quello lì è il paziente giusto da operare. Senta professore, adesso io dicevo il nasino alla francese, però non va più tanto di moda il nasino molto alla poco, francese, molto vero? Meno, molto meno. Che volgarità! No, non è tanto volgare, ma in realtà il naso che piace in questo momento non è il naso con la punta pinzata o il dorso molto scavato, che in realtà ha timbrato sulla fronte, ho fatto una rinoplastica, ho fatto il naso, ma invece è il proprio naso con i difetti tolti e soprattutto che abbia un look naturale. Sì. E soprattutto quello che deve dire chi vede il naso rifatto deve dire come stai bene, sì, e poco di più, insomma. Certo, uno viene, per esempio, non deve accorgersene. Viene per esempio utilizzato spesso come sistema per ringiovanire un volto. Dai, perché cambiando il naso... Perché cambiando il naso invecchia, come tutti quanti noi nell'insieme, e quindi magari la punta scende verso il basso, chi ha un po' di gobba a 18 anni ha molta più gobba col passare degli anni. Mamma mia. Quindi in realtà ancora prima di mettere a posto gli occhi... Lei è crudele con me, lo sa? Senza saperlo, lei è davvero crudele con me. Ho la gobba, ho la punta, adesso sto facendo... Sto Nicoletta cercando... è uno dei pochi casi in cui non c'è stato invecchiamento da nessuna parte. Senta, professor Klinger, ma quanto costa rifarsi il naso oggi? Rifarsi il naso oggi può variare, diciamo, in un range che va dai, tutto compreso, comprendente una struttura, eccetera, diciamo dai 5 ai 10 mila euro. Dipende dalla... Perché è un intervento che richiede poi qualche giorno in ospedale o in clinica? È un intervento che richiede una notte in ospedale, direi più per un motivo di correttezza e medico-legale per un motivo pratico, perché ormai gli anestesisti sono ancora più bravi del passato. Sì. Il trauma di una rinoplastica è un trauma molto modesto, quindi realmente un paziente potrebbe essere dimesso la sera stessa. Però... In realtà io quello che dico sempre è che uno non è che va a casa e balla sui tavoli, quindi tra stare una sera a casa tranquillo o starci in ospedale, è meglio stare in ospedale dove guardi la tele e sei accudito, insomma. Anch'io la penso come lei, professore. Ci sentiamo presto, grazie. Grazie ancora. Buona giornata. Buona giornata. Dottor Franzetti, allora per nasi che per i nasi dei nostri ascoltatori, quali possiamo dare anche un paio di consigli per tenerli bene, coccolarli, belli o brutti che siano, ma insomma. Ma dal punto di vista, diciamo, sia estetico che funzionale, il primo consiglio è non mettete le dita nel naso. Lo dicevano le mamme, ma perché lo dice anche l'otorino. Perché fa male. Perché ci portiamo dentro tutta una serie di schifezze, come si dice. Tutto quello che tocchiamo con le mani va dentro nel naso, se noi ci mettiamo le dita nel naso. La seconda? E la seconda cosa è quello proprio di salvaguardare il naso con un'igiene accurata. Prima cosa, quando soffiamo il naso. Il naso non va mai soffiato forte in contemporanea con le due narici aperte, perché può dare dei problemi anche alle orecchie, ma delicatamente con una narice chiusa e poi l'altra narice chiusa. E poi l'altra cosa, secondo io sono un grande sostenitore di questi lavaggi nasali che spesso, fatti in maniera anche ricorrente, possono umettare e anche ripulire il naso dall'impurità, soprattutto con queste polveri sottili e quant'altro. Allora, prima di salutarci, oggi lo sappiamo inizia il Festival di Sanremo e io ho pensato di suggerirvi un ascolto attento che vi aiuti un po' a scoprire, lasciatemelo definire così, l'aspetto psicologico dei testi e dei brani musicali. Scegliete quindi tra le canzoni di Sanremo quella che vi ha parlato dritto al cuore, oppure che secondo voi contiene un messaggio che potete utilizzare nel quotidiano, che racconta magari una storia che avete vissuto, che vi aiuta magari a tirare fuori un'emozione a cui non riuscite a dare voce. E quindi fatelo già da oggi, perché domani possiamo confrontarla con la canzone suggerita dal nostro esperto, che per tutta la settimana, per tutta la durata del Festival di Sanremo, verrà a trovarci suggerendoci, ecco, un altro tipo di ascolto. In linea con noi il dottor Francesco Aquilar, psicologo e psicoterapeuta cognitivo. Dottor Aquilar, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, noi quest'anno ascolteremo Sanremo con un altro occhio. Sì, e anche con un altro orecchio, sì. Mirando a vedere che cosa succede nella nostra mente quando ascoltiamo una canzone che muove le nostre emozioni. Quindi faremo proprio un esperimento guidati da lei passo passo. Ci dia due indicazioni. Ma la prima è di cominciare ad ascoltare appunto vedendo quale canzone ci dà un'emozione diversa dal solito, sì, sul momento, e la seconda quale ci ritorna in mente dopo l'ascolto di tutta la serata, perché da un lato c'è l'emozione immediata, dall'altro c'è l'effetto sulla memoria. Quindi ai miei amici da casa, noi abbiamo un profilo Facebook, invito anche il dottor Franzetti, scriveteci oggi le sentite su queste indicazioni che ci ha dato il dottor Aquila, sentite quella che vi ha parlato subito al cuore, quella che vi ha suscitato un'emozione, poi pensate, arrivate alla fine oppure quando decidete di andare a letto, fate un rapido memo di quello che di dentro di voi è successo, scriveteci sul nostro profilo Facebook, leggeremo un po' le vostre preferenze. A proposito di preferenze, ricordo che la frase che abbiamo selezionato ieri in occasione proprio della puntata di San Valentino l'abbiamo scelta con grande difficoltà perché le lettere d'amore erano tante e molto carine e l'abbiamo messa sul nostro sito. Devo dire che abbiamo scelto un uomo di nome fa Sebastiano, non voglio dirvi di più. Grazie al dottor Aquilar, grazie al dottor Franzetti, grazie, saluti a tutti. A voi e ai vostri nasi, mi raccomando, teneteli da conto e domani portateli di nuovo qui. Essere e benessere.